Che mi ha poco interesse, mi dice. sono morto in ascolto, poi sono entrato a salutare, ma non sono uscito morto. E lui è stato a dire ciao Marco, buonasera. Salve. Via. No, avevo acceso da poco anche me, più o meno troppo siete entrati voi. Sì, non sto entrando, non avevo tanta voglia di entrare in radio. Mi sto dedicando, vabbè, un po' a qualche altra cosa, leggendo, poi quando è 2 giorni fa o 3 siamo andati al mare, ho portato mamma al mare, la giornata c'era appena appena di brezza, quindi non c'era troppo caldo, siamo stati bene, veramente bene. Sì, l'altro giorno poi, chi lo sa, magari ti venne a salutare, avrebbe contratto cambiato, chi lo sa, magari riuscite a riappacificarvi. Lascia perdere, non ci saluta nessuno, io va bene così, io continuo per la mia strada, non c'è ne problema. Dipende, Massimiliano. Positivo, positivo, allora. Come dicevo, Marco, adesso piace più stare in giro, capito? Che uno si sposta, va a mangiare un gelato, un po' la radio la lascia andare, va? Eia. Appunto, se l'altro giorno al mare, prima abbiamo mangiato roba portata alla casa, no? Poi ci siamo pigliati il gelato pure, le coppette ce le siamo mangiate proprio in riva. Dolce, capito? Guarda, io ogni tanto accendo, per esempio alle 5 accendo, niente, alle 6 niente, alle 7 niente, alle 8 niente, salvo rari casi che sento, che ne so, Natalino o qualcun altro, insomma. Oggi c'era la propagazione, ho notato, sentivo molto forti i portoghesi. Poi c'è una stazione in FM e su molti canali, tedeschi e roba del genere. E quindi caro, secondo me non va bene. Sì, io mi sto avvertendo, mi trovo in Cecios, dove c'è il gruppo, vedi, sì, Lucio, vabbè, mi sto attaccando la colonnina esterna della, questa radio, vediamo se questa qua... Sì, ecco. Ok, va bene, va bene. No, Marco, ma neanche io, né avanti ieri, né ieri sono entrato perché sto rientrando tardi, c'è un moratore anche su Usci, e crisi idraulici, quindi sono incasinato anche lì, poi sto facendo orari un po' lunghi, allora un po' di assenza anche io, vai. Io senti che ti stai stancando un po', stai facendo orari pieni, molto pieni. E Natalino non sta più entrando, Natalino ci sei? No, quello è che l'ultima volta l'ho sentito, boh, sarà inizio settimana, non so, oggi è giovedì, forse inizio settimana, ma io ti ripeto, né ieri né avanti ieri non ho acceso per niente, non c'ero proprio, capito? Eia. Poi vabbè, anch'io non è che avessi voglia tanto di chiamare e vedere chi c'era. E adesso mi siete state, quindi vi sentirete leggermente un po' meno. Intanto al mare andiamo di pomeriggio. Una volta tornati bisogna sciacquare la roba. Tipo il costume usato è sciacquare, poi io mi lavo sempre i piedi. La doccia la fai lì, grosso modo. Quando arrivo a casa mi faccio, mi sciacquo i piedi però, perché lì ci passano delle persone, su quella sabbia, non voglio pigliarmi funghi. L'ultima volta chi c'era? Chi c'era? C'era 2 giorni fa o giù di lì, Natalino e io, mi sembra. Era entrato Uranio a chiedere un controllo, poi non mi ricordo altro, dai. Oh, ma tornando al mare bisogna fare un po' di cosette, poi si è stanca, alla fine il radio non si entrerà. Vabbè, dai. Vediamo cosa c'è. Vabbè, è stata così, no? Io non esco molto, non sto a casa. Se rientro alle 5 e 6 faccio la luce, però la notte non esco molto. Fino alle 8 e mezza, la notte, poi me ne rientro. Ceno. No, invece no, cioè, sto buttando così, attaccato alla radio, fa luce. Va bene, appagata. E comunque sì, adesso si lavora un po' di più. E quindi va bene, va bene. Comincio pronte qualche settimana di ferie da fare, prima della. Se no poi mi rispettano a settembre-ottobre, quindi è meglio che mi riposi prima. E poi abbasso la testa, se no, vai in coma profonda. Avanti Massimiliano, riprendi. Oia, positivo. No, io avevo piazzato su della barra, dopo lavoro, ho fatto la radio, così giusto, se capita veloce un paio di minuti a fare qualche passaggio. Oh, questi giorni già c'è proprio la chioma, ora. Sto ascoltando, ogni tanto mi sposto sul 45, c'era sul 41, sul 45, il 43. Ho visto che c'era un po' di traffico, ma c'è sempre molto, molto bordello a me. E quindi mi sono mangiato un capo, allora mi rimetto l'ascolto sul 10. Va bene. E tu Marco, finito hai a casa le cose che dovevi fare? Beh, in realtà no. Alla fine la mia zia ha fatto, magari fanno il seguito, ho fatto cosette qua, però poi i faccini sono rimasti una baraonda lo stesso. Vabbè, se vuole fare a pezzi, perché poi è stato poco bene, una volta l'ho portata al pronto soccorso perché è stata male di notte, ha avuto una sindrome vertiginosa che le è durata un bel po', ha anche vomitato due volte. Ed è la cervicale, secondo loro la cervicale si vede dall'attacco, ho detto. Insomma è stata poco bene, quindi ho detto riposati, se dobbiamo fare roba la facciamo con calma, con molta calma. Insomma non si finisce mai di mettere a posto qua, dai. Non so, è più così. Purtroppo resti gai, riprendi Massimiliano. La vedi che sta portando? È di propagazione, cosa volevo dire, mannaggia, non ricordo. Fa memoria. Allora non era importante. No, che mi avevi mandato una foto tu, no? Con uno strumento termobalistico. Tu hai? Sì, quella è la mia, l'ho mandata a mattina, l'avevo preso. Quella è la mia, sì. Ascolta, ma sono la prospettiva, ma tu hai la versione compatta, che è leggermente più corta occhio di quella normale. Sì, me l'ha spiegato anche Natalino, sì, quella versione lì c'ho io. La compact, infatti ho detto, ma la più corta è la normale, sì, c'è la versione compact volendo. Via. E poi appunto non ero rientrato. Sì, c'è propagazione, sarebbe bello stare sui canali alti a fare qualche prova. Come senti dallo sbadiglio, poca voglia c'è. Natalino, ci sei? E Natalino, se non è in radio dove può essere? Ah boh, non lo so, molte sono ascolto, il volume è basso, è del computer, non so se è uscito, non lo so, io ti ripeto, né ieri né avanti ieri sono entrato, perché c'è un sacco di cose da fare, stiamo finendo su Osci, quindi c'è da fare tante cose, quindi devo Sì, che domani è festa, l'ho sentito da voi. Ho chiesto la conferma e mi ha detto che è festa, io non lo sapevo, non me lo ricordavo. E vabbè, peccato perché volevo andare a Decathlon a pigliare una cosa, in un forbice a prendere un'altra. E pazienza, dai, poi sabato nulla, domenica niente, se ne parla lunedì, ho capito. Scusa, ma stavo chiedendo l'altra volta che c'era quell'altra persona, tu dove vai al mare di solito? Zona tipo saline? Solo le saline, io sono abbonamento lì dove saline, sia io che mia fratella, mia sorella che abita a Stintino, sono abbonamento lì. Sono un bello me la sdraio, poi c'è il maretto, sono ci sto bene. Tutti gli anni io sono lì, tutti gli anni. Quando io magari lavoro, la mia figlia con mia moglie, io li raggiungo quando esco dal lavoro. Capito? Siamo lì, solo le saline, lì dove le saline. E noi la cerchiamo sempre lì a Tamona, vicino. Scoglio lungo, ci piace anche lì, e una volta andavamo a Quinto Pettine, un po' verso destra, no, non proprio davanti al parcheggio, ma verso destra, e era un po' più esclusivo, capito? Cioè, invece di stare in mezzo al carnaio, lì ci vanno meno persone. E poi vedremo quest'estate cosa facciamo. Anche al Cilis andavamo, lo sbocco del fiume Cilis, solo l'anno scorso c'era un vento, mamma mia quanto vento che c'era, abbiamo mangiato sabbia. E via, se ne è entrato Massimiliano. Noi magari tanta gente si è spostato. Ma io sono andato sempre lì. Da quando, non so se lo sapevi, da quando praticamente alle rive andava al chiosco, io andavo sempre lì. Oh, tanti anni, quanto, 30, 40 anni fa? No, 30, 40 anni fa registrato. 30, 40 anni fa, sono una decina d'anni, ma sono ricordo. La mia cosa era sempre lì, capito? E continuo a andare lì perché si sta bene, poi sono tutte le amici, vabbè, mio fratello lo stesso è lì, c'è mia sorella che scende dalla Sentino, viene alla Sentino. E vabbè, comunque quest'anno ci andrò poco al mare perché c'è un sacco di cose da fare, avanti perché. No, non ho capito, chi è che ha il chiosco? Aveva il chiosco, il padre di Ivan lì. Non deve essere storia antica, no? No, ti ho detto, una decina d'anni fa. Solo? Oh, il chiosco. Il chiosco di bibite, no? Caffè, tutte quelle cose lì. Certo che sì. Era anche bello grande. Ed è lo stesso dove adesso hanno costruito il lido, dove c'è il lido delle saline. Ce ne sono due, perché io sono in quello verso più Stintino, un po' più piccolino, perché è chiaro il chiosco, sono portotovesi, quindi siamo amici, o rimango lì, capito? L'altro è un po' più grandetto, e insomma, va bene. Sì, io non lo sapevo che avesse il chiosco là. C'è un break, è avanti, no? Voglio entrare. Avanti, facciamo numero. Io ho detto avanti, non ce lo metto. Non so che dire, ma poi però tra quarto d'ora, 20 minuti, poi ho portato il cane, fa una passeggiatina. E così abbiamo terminato la giornata. Ciao Giuseppe, se sono mandato io, allora cosa saranno i cani? Ho soldi tutti i cani. Ma così hai due volte che ti dico avanti e non vieni avanti, a voi siamo soldi noi. Poi, ma buonasera a tutti, non ti ho sentito. Carino c'è per caso, in ascolto. Abbiamo chiamato e non risponde. È due volte che ti ho detto avanti break, infatti Marco ha detto non ha gana di entrare. Non siamo giorni, già ti ho sentito. No, non l'ho sentito Natalino. Sì, rifaccio un colpo di telefono. Se sto casinando devo portare roba. Chiamalo, perché l'abbiamo chiamato alla radio e non ci ha risposto già. Vai, Marco. Vedi la portante di propagazione, Claudio? Arrivo fino a 9. Sì, sì, sì, è portante di propagazione. No, io ho sentito Giuseppe, forse tu non l'hai sentito, perché in mezzo alla propagazione, intanto anche Giuseppe, salutarci. Vabbè, Giuseppe, ci sono comandroni io, cosa saranno i ricani allora? Come puoi dire, ma proprio mandrone no, A me lo puoi dire. Vabbè, tu sei un caso patologico, non hai lavoro e quindi non sei un mandrone. Mandrone io definisco le persone che hanno lavoro, o non vanno a lavorare o quando vanno non fanno niente, perché non hanno voglia proprio di fare. Invece sono al contrario, capito? Sono al contrario, che grazie a Dio nel mio lavoro lo faccio bene, lo faccio far bene, ma soprattutto mi piace farlo, e quindi non mi reputo un mandrone. Caro Giuseppe, così è. Lo compro questa portante. Tra l'altro questa portante in FM, c'è un fruscio in FM. Un rumore tipo. E c'è un bel propagazione. Ti volevo far ascoltare anche se così giusto per ascoltare un po', anche 10 metri c'è la propagazione. E quando c'è propagazione in 11, anche in 10 c'è la copertura, però aspetto tutto che può avere una giudica. Ascoltare. Va bene, va bene. Gianni? Gianni? Ha detto che forse stava chiamando Natalino al telefono. Per esempio oggi no, invece di stare così, ero coccato, no? Bello, stava bene. Poi guardo l'orologio, ho detto vediamo che ore sono. Ho visto le 7, seriale. Devo fare un po' di traffico su canali alti, chiamare stazioni italiane se ce n'erano, magari con l'aiutino. Dove c'è nulla, proprio mandrone, mandrone. No, io già mi sposto, che qua, una foto su 55, su 55, ma la terra c'è sempre il traffico, quindi dove io non entro, non sconfino mai da dai 40 canali, capito? Niente, e poi ho acceso poi la caffè a farle scaldare un po', ho visto c'è la popolazione 10, 15, 20, 40, e niente, poi ho giusto trovato tutto, se no mi viene una cosa, ho acceso il amplificatore un po' farlo scaldare, sempre su lato, capitale mostro questo. Vediamo un po' domani come sarà. So che domani vabbè c'è festa, se il tempo è bello ed è festa vanno tutti al mare. L'altra volta c'erano ben poche persone, perché noi siamo andati tipo di lunedì o martedì, no lunedì forse. Domenica sicuramente c'era troppa gente, siamo andati lunedì, bello, stava bene, poca gente, c'erano più venditori ambulanti che persone, lo sai, in spiaggia. Ehi, siamo più venditori ambulanti perché a Stintino, per esempio, lì alle Saline sono i vigili di Stintino Borghese, mi fanno andare via, sequestrano anche la roba, soprattutto lì dove sono i due lido, non si possono avvicinare. Assolutamente, perché è tutto, non siamo accordi eccetera, quindi non possono, passano il bagno asciuga, però se vedo i vigili mi mandano via, vabbè, tutti loro devono tornare così viva, che ci vuoi va, comunque, no, male, io ancora, niente male, no. Niente male, mia moglie e mia figlia sono già andate, qui di nuovo, e io già ce ne ho detto. Grazie. sempre caldo, quindi non voglio andare al mare, sta pagato. Comunque domani penso che sia tutto aperto, eh. Non so, non ho sentito mia figlia ancora perché si è alle 8:30 oggi. Non so se domani è aperto, io sono Gabriel. Sembrava Massimiliano questo. Ora, Osciano aprirà, se lo apre sempre. Però sei negozietti tipo Decathlon. Allora, a Decathlon devo prendere quella maschera per snorkeling, no, per andare in acqua. La maschera antigas. Praticamente non hai boccaglia in bocca, capito? Non ho la massima, c'è questa maschera, insomma, calza bene sul viso, hai una mascherina interna con due valvole per respirare. È molto comoda, chi l'ha provata è... Ti boccaglia in bocca. Poi se ti immergi automaticamente si chiude lo snorkel dell'aria, quindi non entra acqua. Giocattolino, dai. Da forbice mi dovrei prendere le pinne uguali a quelle che ho io adesso, perché se stanno aprendo un tallone, c'è un bel taglio sul tallone, e mi volevo prendere le pinne uguali, lo stesso modello se ce le ha, se no devo scendere a patti, però le voglio gialle, in acqua si devono vedere bene, capito? O gialle o gialle, oppure le ordino da fuori, che? Chi è che vuole entrare? Non lo passate a Marco, si sente qualcosa sotto, è 9:35 qua Marco, chi è? Dico, lo volevo passare, avvicinante, più forte di me è diventato, guardate la di plastica, buonasera. No, Marco, dalla zona di giù è quello che arriva più forte di tutti, manco con lineare ce la fanno a passare. Chi si attacca a lineare è 9:40, quindi 9:35 è segnale pieno, gli altri siete tutti 9:25. Vediamo se era Massimiliano l'altro, ciao Luca. Ehi, ciao Luca, io sono io, Gala. Io sono 4 watt, sono Luca, sto usando quello omologato, 4 watt. Io avrò stazionale, io adesso, vabbè, poi sono più alto, molto più alto, sono molto più vicino a Claudio. La stessa cosa che cioè, ti sei più vicino tu di Claudio, arrivi più forte tu con la centra. Più vicino a me, no, sei più vicino tu, lui è un varco per me, capito? C'è solo un varco per me. Ha solo un varco per me, perché anch'io gli arrivo fortissimo a lui. Il segnale che mi dà più alto è quello che mi dà lui. Io più forte da lui che da Gianni, figurati. Beh, non mi sono molto, dai, vado là a fare due chiacchiere. Ciao Massimiliano. Oh no, classe, è più vicino a lui, dai, io sono molto più in basso. Se mi gira un'antenna meno, cioè, non è, cioè un'antenna più scarsa della mia, e poi scarsa non è che è anche buona, quella lì si fa sentire dappertutto lui. È più vicino, tranquillo, fidati. Comunque c'è un segnalone, quello me va più forte di tutti. Io di Gianni quando attacca non c'ha il suo segnale. Lui è 5 dB meno quando attacca di Antonello Pomponi, ho fatto il conto. È buono, non so. Non lo sa, ce ne sa che non deve andare a mangiare. Uff, ma è rientrato, vai a fare la spesa, vai qua, vai là, e prendi quello, prendi quell'altro, e boom, e via, e boh. C'è sempre, sì, ma si vedeva, va bene, va bene. Massimiliano si è andato su 45 a fare due chiacchiere. Ehi, riprendi Marco, riprendi. C'è anche Gianni doppio rumo, non so se è sceso da lampadino. Cosa già? Ci siamo anche noi, siamo in tandem in barra mobile. Non si può fare più nulla, occhio. Siete in tandem in baramobile, parlo anche a te Eugenio. Buonasera, io capisco, se tu che non capisci, c'è molto PRM, molta propagazione, però una volta già riusciamo a parlare tutti. Natalino, ho capito. Dove sta tornando a prendere il caffè? No, se vado a qualche giro, in diretto. Non ho capito niente, già. Cosa hai detto? No, c'è un mercato a comprare la roba, visto che la lascio a casa, la stai io, Federico. Un cione a Natalino, eh. Colino Condo, ciao. Eia, la tappignara ormai, Condro è parte del passato, almeno è originale il nominativo che adesso. Gli arresti domiciliari. Eia, no, magari no, devo uscire se volevo. So che ero, mi ero proprio isolato, isolato ma dall'anima, alle 7, credo, se lo... Sì, Mazio, alle 7 erano, mi sono appisolato forte. Io ci sono mercato, non passa. Vero. Eia. Tommy, domani è festa purtroppo, ma almeno Ushan è aperto. Ah, vai, siete cuocuomani siete, vai. Chi va alla Ushan sono tutti cuocuomani. Ushan. Che altro, vabbè, a me interessava Decathlon e Forbice. Esiste sempre Forbice, sì. Voglia. Ok, devo pigliare le pinne nuove a snorkeling, niente di impegnativo, e le cresci, le chio della crescia mi si stanno aprendo al pallone. Cazzo, vai Marco? No, snorkeling, niente, con la maschera vado a vedere posti, zone di scogli soprattutto, vi guardo i fondali. Mi voglio pigliare quella maschera nuova uscita l'anno scorso che non hai più boccaglio in bocca, è tipo maschera antigas, capito? Ha la mascherina interna con le valvole per respirare, è molto una figata. Sì, beh, è vero. Chi ce l'ha dice che è contento, dice un nuovo modo di fare snorkeling. Non si appanna dentro, capito? Perché ha un modo di respirare tipo la maschera antigas, e qui non si appanna mai. Sì, l'ho vista, però vabbè, puoi scendere sott'acqua, sì. No, non puoi compensare con quella, ricordati, non puoi compensare, quindi c'è qualcuno che un po' scende, ma di 1-2 metri, se ti spacca i timpani, se vuoi fare pesca sopra ci vuole la maschera normale, sul boccaglio. Ah, quella se ne sono, esclusivamente per guardare i fondali, giusto, non all'alto. Sì, per farti una passeggiatina per guardare i fondali, le zone di scogli. Pensa che certe volte io pigliavo i polpi così, dalla superficie, perché loro sono convinti di essere invisibili, no? I mimetici, puntavo il fucile, pa, tirato il polpo, senza scendere giù, ma quando erano all'aperto, mi beccavo proprio all'aperto, sulla sabbia. Sai dove? Al quinto pettine. Una volta c'era nella nombre di polpi, mombe, adesso è tutto vuoto, non ne trovi più in giro, sembra che l'abbiano proprio svuotato. Oh, dai, io vado a portare il cane, ragazzi, ci siete, ci sentiamo dopo, se no vi auguro un buon proseguo di serata a tutti, ciao. Ehi, Claudio, dai, stai portando il cane adesso, ok, sentiamo, non so quando, dai, io appena posso entro, ok? Riprendi Luca per i saluti. Tanto a me non mi trovate, dai, ciao Cla, alla prossima. Tanto io ho ancora 10 minuti, sì, poi scappo, vado a mangiare. Rientro a casa alle 9:15, devo fare l'insulina a mamma. Ecco, metti Goku. No, non è uscito, non venisci in giro. Buonasera. Ratta. Eugenio, non ti sento molto spesso, vabbè che non sto entrando nemmeno io, non sto più entrando, mi sto dedicando un po' là ad altro. No, è un po' impegnato, dai, ultimamente sono un po' impegnato e non concilio gli orari, capito? Eia, caspita, c'è questa propagazione, c'è una portante propagazione che ti sta coprendo, lo sai, questa che oscilla, mi arriva anche 9. Addirittura. Claudio è andato via, ho sentito che è andato a portare il cane. Sì, a momenti non passi, dai, a momenti non passi. Questa portante è in effebbre di propagazione, ogni tanto ti copre, in base a come ti muovi, no? Addirittura così forte. Sì, lo vedi la portante. Allora qua oscilla un po', capito? Ehi, ehi. Beh Gianni, siete arrivati? Ma quanta gente c'è in questo canale? Certo, propagazione un bel nastro. Attento, attento, Gianni, Gianni doppio rombo, Gianni Granai. Questi sono Alghero, eh. Alghero, se mi sentite, c'è una portante propagazione che vi copre. Sono a tratti vi sento. Un saluto a tutti. Va bene. Luca, c'è ancora? Sì, c'è. Ciao, io trovo che non è una password. Eia. Comunque, Lu, se uno scende in verticale di 1-2 metri non succede niente, capito? Con quella maschera. Però non puoi fare immersioni tipo 5 metri e oltre. Comunque è molto bella, non ti bagni nemmeno il viso. Una bella idea, Guarda, l'anno scorso costava 39,99, adesso è 29,99, 30 euro, sono abbassata ai 10 euro, quindi la voglio pigliare. Oh, guarda, sei buona. Cosa, la maschera di cosa? Di Decathlon? Eia, quella tripod, quella tipo maschera anti-gas. Quella che respiri, c'è con la bocca e con il naso. Sono tutto capito G, stanno parlando anche da Alghero. Alghero, da quando è che abbiamo tutti c'è Alghero? Sono quelli che vanno. Sì, cosa mi hai detto della maschera di Decathlon? Ripeti. Ho detto che si respira sia con il naso con la bocca. Poi il decare la misura giusta perché se no. Ehi, non ti copio, dai, ti sovramodula, no. Oppure siete uguali di segnale. Alghero sta parlando. Alghero, ascolta se Sassari. Attenzione, Alghero. Sei pazzo, Luca, sei pazzo. Sto scherzando, dai. Purtroppo non sento Eugenio. Mi devo dire quella cosa. Eugenio, passa al 9. Passa al 9 in fretta e me lo dici. Ai Luca, Luca del Monte, non vale più. Oh, signori, dai, c'è il naso chiuso, devo andare a provvedere. Lascio acceso, comunque, lascio acceso, se si rientra Claudio dopo, due chiacchiere. E Pomponio non è più entrato? Vabbè, a dopo, dai. Ciao, io saluto, ciao.